facendo ieri, no? No, sono trattata. Se mi devo dormire allontanare. Un attimino, Gian Mario. Vai, vai, andalo qua. Bello! Arrivo, sì. L'ingresso di Ucraina. Sto facendo cose in cucina, quindi. Rispondere. Novembre, e quindi mi devo arrangiare. Non si... dove c'è la stessa cosa? Cazzo, già l'hanno fatto vedere quel tubo tutto marcio, cazzo, già il tubo sto, chissà che ce la fanno a metterlo a posto. Ma un vedente l'ha detto cosa è, operai. Anche su busso, già da quando ve abito, da gennaio ve abito. Quindi l'hanno detto, cazzo, sono 6 mesi aperto questo fosso qua e non avete concluso ancora nulla, non avete concluso. E 6 mesi così, quel fosso lì, e non avete mai concluso nulla, non avete. Quindi datevi un'occhiata, perché non si può stare sempre a mancare l'acqua. Ma è dipendente, no? Cazzo, questi che stanno facendo questi lavori non ne hanno colpa, sto. Cazzo, sono i dirigenti che, cazzo, a farli fare in fretta. Però quelli che stanno lavorando lì, cazzo, con la calma, lo fanno piano piano e, cazzo, se riesco a farlo bene. Che è un macello, sto. Cazzo. Poi anche da me, ma che diceva, sempre alla macchina di sì, ma siamo sempre noi che manca, il lunedì sole non manca mai, nell'acrilo che non manca mai, non manca. Che si fa cosa? Insomma, tutti che hanno messo quando hanno fatto l'irrigazione, sono tutti frati che sono. Sono tutti pratici e prima o poi è chiaro che la ruggine corrode, la ruggine corrode con l'umidità e per cui si rompono questi tubi al pezzo del terreno, capisco? Per i mesi sembra così, ma i tubi lo passano i mesi, è un macello. Ma io dico questo. Secondo te è un colabrodo, prendi a fianco, prendi e fai la condotta tutta nuova, fai. Fate invece di fare sempre le giambende, pezzo, va pezzo. Bene, cambierà tutta quanta, cambierà. E beh, quando fai devi fare l'allaccio, prendi e fai l'allaccio. Non mi vuoi assai, no? Perché a fare mezza tutta nuova la condotta, cazzo, ci vuole anche tempo e non è una cosa fatta a fare così in pochi giorni, cazzo, succedendo anche mettendo la condotta nuova, è chiaro che manca l'acqua a fare i circuiti, capisco, quello è il fatto, e poi sì. La parola mi pare che da tutti. Mi pare che sono tutti che si nafutini, ecco cosa è. Non manca baghetto, non manca baghettato, non manca barogoso. Ma sì. Del consorzio, non manca baghetto, ma stanno facendo sempre mancare a noi l'acqua. Ecco cosa è. Dalla Basiata non manca mai, non manca. La Basiata, perché magari visto tutti i tubi nuovi che avevano messo quando hanno fabbricato lì, capito? Per cui le condotte maestre sono i tubi che hanno messo da un bel sacastante di sotto su terra, capito? Macello è ma non solo qua, da per tutta la Italia manca l'acqua, anche già l'hanno fatto vedere anche loro i posti sono senza acqua con l'altra botte, cazzo, si può immaginare, non sono sassari, no. Un attimino, Gian Mario. Oia, che attende muove un bel mondo. Anche nel caldo sto. Ma sto giocando i gatti. Ma sta tirando appena da rieta, sta tirando, ma non sai. Faccio, aspetto la ventola, sta entrando la rieta. Ma momenti, momenti, no? Sì, va bene. Ce la abbigliamo momenti bene, ce la abbigliamo. Cazzo. E ancora in nulla, bisogna i casi di più ancora. Più si va, più si calda. Oh, sempre ai 33 gradi da noi. 40 gradi sono alla base di... Rivusi, che sono il paese che sono sotto, lì che è tutto chiuso, lì ci sono 40 gradi. E stava il capitano, cazzo è tutti i chili, cazzo montagna non vi risolvo, e per cui rimane in basso. Io magari sarà 40 gradi chili pure. Infatti è così. Noi con 33 gradi già potremmo andare perché c'è quel venticello che tira da noi, quindi un po' caredo gli attira. Un po' che non sta entrando, va, al battello, va, si è aperto già tutto, ho visto che sta passando la pantalata per cui va bene, va. Infatti è così, purtroppo, ce la prendiamo come viene. No, cambia tanto. Ma ti fermo a ciamballa. Ma se vediamo un gas, se vediamo un breco. Tanto lo vedo, se vediamo un gas. E muda che si è cagliato. Infatti. Un po' caredo già, entrando. Quindi meno. Oh, il tempo suo, caldo lo deve fare, per cui non ci dobbiamo lamentare più tanto, vai. Questo caldo così a Foso ce l'abbiamo per 10 giorni ce l'abbiamo, poi abbassa un pochettino. Si può abbassare, si va mai via esso. Si può abbassare, se no andiamo sempre ad andare a TVC, sarà a settembre. Anche a settembre, certi anni, se fa caldo, un anno, molti anni fa però, avevo la 500 familiare e avevo la truppa dei bambini. Sono andato a Roma, no, con la 500 già diretta, con la familiare. Ho finito la macchina e siamo andati. Se abbiamo, al ritorno, abbiamo fatto il viaggio fuori. Cazzo, però qua siamo tutti bruciati, ho detto, malato per la casa virume. Ha bruciato completamente. Io ti credo, i suoi giorni. Allora c'è la per la ferrovia dello Stato di Confalanzi, un traghetto l'abbiamo viaggiato, certo, da Civita Vecchia a Cosa, a Olbia, certo, anche a Olbia, a Confalanzi, certo, fino a Gardura lì, certo, ma che l'ombra si muoveva in sta? Allora era Gaggio. Ti ha faccato di più a quei tempi. Ma non sta più viaggiando quello di Confalanzi o no? Lì si tira ancora di più il calore, certo. È più lontano di Ubbia. Infatti, sto dicendo, ma i traghetti di Confalanzi stanno ancora camminando, sì? Due ce ne sono traghetti lì. Due traghetti, una Sardegna Ferris e l'altro è mi pare di Rignano Mattes. E a chi caricavano i vagoni del treno, caricavano prima e poi ci siamo ancora adesso. Non lo so. Io vi ho andato più. C'è una lì che non vi ho andato più a Golfaranci. Certo. E anch'io sono un bel anni senza andarci. Certo, un bel anni. Adesso è tutto trasformato. Tra Olbia e Golfaranci è tutto trasformato. Capito? Allora, da chi te la faccio peggio se non stai attento? Infatti. Bene, fermato da Rossa. Già sono un anno senza andare a Civita Vecchia, è una di... ho fatto per 15 anni, lo so, facevo vita vecchia, o Livorno, oppure a Coso, anche a Genova, questa volte da Livorno, se c'era nel marzo, allora toccava andare a Genova, oppure a Piombino, capito? No, io quando non riuscivo a prendere la nave di Civitavecchia, no, mi prendevo quella per Livorno. E da Livorno andavo direttamente con il treno di Sci a Trieste. Il traghetto dell'Olimpico, cazzo, qua a menamento, cazzo. Ormai era volato di chiedi, cazzo, poi una macchina. Però certe volte ho troppo la gente, allora, cazzo, non si riusciva a caricare, cazzo, allora toccava in senza, oppure di andare a Piombino, sino imbarcarmi da Civitavecchia, lo da Piombino, oppure a Livorno, sapevo io già, lui cammina 2 chilometri e va di addosso, poi a Livorno. Se pensi ai tempi verdi che si viaggiava allora, ma invece siamo sempre in ferie e se tocca rimanere in Sarrabi. Prima c'era l'Aurelia, vero? Fino a Livorno c'era l'Aurelia piccola, da Civica Vecchia. Allora invece di fare autostrade e fai più stretta pure, più forte, capito? Poi è stessa. A me io viaggiavo la maggior parte più a Denotte che a Denise. A Denotte c'era più poco traffico, capito? Infatti. A Denotte c'era poco traffico che si camminava di più. Poi ormai, lui con Saraghita, io di lui Saraghita andava e tornava, so. Poi, tutta l'Italia girava un po'. Vabbè, per lavoro si girava tutta sì. Io invece viaggiavo un giorno quando dovevo andare a militare, Trieste e Roma. Roma-Trieste. Era diversa la situazione, va. Io giravo anche che se vado anche in lunga, dai a caricare, poi a certa volte anche dai lunghi a Genova, da Osso, Torrà, a Livorno, da Livorno, da poi toccava da Foggia, e poi a un battello, da si troccato poco dei chilometri. Allora sì. Sto per di vedere le macchine elettriche, mi sto per di vedere il televisore. Vabbè? E come facciano fare le macchine elettriche? Accende la scala la televisione. Ah? Tu la televisione accende la scala. Accesa. Questo ce l'ho sempre accesa. Anche lui. Anche lui stanno vicino, sono 85 litri io, adesso si sente però un microfono normale. Oh, Giulia. Non è così. Purtroppo ce la dobbiamo fare così. E forse maggiore, siamo qui. Cazzo, siamo un po' sei davanti. Cazzo, un costone ne faranno. E non è questo. Non ci sono feriti, ma solo per la zona e la già interdetta proprio perché è sottrane. Ma le norme sono spaventate, i bagnanti sulla schiaccia. Un pezzo di costone ne faranno. Cos'è da faraggio? Un pezzo di costone, fanno vedere. Dalla montagna, che girava a spiaggia. E tu quale canale? Numero 3 sono. Ottimo. Tutto sono, siamo canale 1, so. E a sola catena. Tu guardiamo, rilassiamo a catena tutte le sere. Ma io sto guardando... Che ti sia correlazione o no? Il alle 2 sul canale 3, la RAI, che lo vediamo sempre a quell'ora. Poi la sera non lo guardiamo, qualche volta capita magari di girare, però guardiamo altre cose. Lo Stromboli è tornando a buffare, aspettare, torna a cenere. A scalpare. Io c'è che me ne tocca a me, ma io non me ne tocca. Grazie, molto lontano lui, no? Un bel lontano. Che è il paese. Così lo guardo, quando già rispeggia il vulcano, grazie. Ma come fanno a respirare quell'aria, cazzo? Infatti è così. Cioè è lontano, ma non si tocca. Sta buttando fuori fumo e cenere. Cazzo è un chilometro lontano, via. Non si tocca se è grazie di là. Eh sì. Ma va entrando un po' carico di garore in treno. Ma non andiamo d'accordo. Perché ho inventato l'aria fresca a momenti entra, a momenti entra l'aria calda e la cosa puoi fare scoppia, non si può fare niente, è un pacchetto. Infatti, no, dentro un pacchetto d'aria calda. Infatti, un pochino in treno, ma... Nel suo successo abbiamo chiesto se sono più sedili. Sono cominciando a sudare. Io sudo parecchio, perché ho anche le cuffie, capito? Ma quando mi ricavano le cuffie, faccio la rete, tutti fuggi i rivarri. Siamo attrezzati, va. Ah, bella autobotte. Però autobotte non vi osso. Che se ne rodreno. Oh, certo. Certo che, già come fanno sempre, va. Ahi, no, non si vede mai. Viene una giuro, viene. Quindi, hai tu che già passa una. Per il bagno è molto brutto quando c'è l'acqua. Per il bagno, capito? Se lavassi la faccia, se vuoi lavare, lavi tutt'altro. Però per il bagno ci vuole. Mancata. Adesso vediamo, c'è la sega da buro, dovrà mancare. È una cosa che sta prendendo il ritmo di mancare sempre da che sta bassi. Ecco cos'è, sempre questi quartieri. E gli fa mancare pure a battere un sole che è l'altro luogo. Che prima avevamo l'acqua che arriva da acquedotto. Ma non arrivi più dall'acquedotto. l'editore del GPS. Il fatto sta che stiamo male, siamo 7 ore. Cazzo, già che ci sta mancando l'acqua. Ogni settimana manca l'acqua. Boh. E non sono tutti che i giornali lo leggono. Cazzo. E chi lo legge, cazzo, in una testata si non dicono niente. Cazzo, senza acqua, cosa fa? Oh, già. Ha un bel depare, è coso, l'hanno mandato lo... lo conto a Manoa. E se tu mi paghi questa a me, io ti pago una bolletta. Se no te ne pago più bolletta io, se continui così. Come fai a non pagare? Allora ti danno solo quella cuccia e basta, ecco. E va, tu non puoi, sai che ci sono tante aziende che gli serve l'acqua e tu non gliela chiudi ogni settimana. C'ho dinammi ogni settimana che pesano. Sì, ma già, le aziende già si attrezzano, vai. Già si attrezzano l'azienda, chiaro deve prevedere le cose. Perché l'acqua può mancare, cui cavallo di serbatoi, cazzo. Magari ci sono sempre i saggi, capito? Sì, ma non lo manco pure io, serbatoio. Aspetta, no, si continua così, da baito. Ma io la volevo mettere, era come faccio, sono troppo cose da capire, non so. Io a cavalli sullo scaffale, a dietro la poco, sta senza cosa. Cazzo, e se ho ancora la mia usa lì, ma non so forza. Tocca pure, cazzo, allora la pancia la roba di te, non mi fai, non è possibile. Io la prima di usa la dovevo mettere, cazzo, nel pattuglio, dal tuo club, cazzo. Però purtroppo manca il posto, è tutto lì. Io me lo devo fare il posto giù. Ho togliere una panca e c'ho il posto per metterlo. I tubi ce li ho già passati, quindi non faccio altro che allacciarmi e boh. Quando manca l'acqua fa male, però un macello. E per lo male tu si deve attrezzare, se riesce a sapere che manca l'acqua, quando la fanno. E prima andavo anche in campagna a prendere l'acqua, avevo tutto da 25 litri, andavo a campagna, perché per riempire mi portavo qua. Ma non vado più a campagna più all'epoca, oh, non sarà. Infatti, tocca fare così, tocca fare. E vabbè, purtroppo te dovremmo arrangiare così. E io sarò devo, là. Batti bene, sì, cazzo. I pugni, cazzo. E uno si deve anche adeguare le cose, purtroppo. No, non è tutto quello che vogliamo, capisco, intanto sono questi inconvenienti e per cui io siamo noi solo qui in Sardegna che mancareva. Ah, sei contento che ti mangi di sotto a Stefa? Io lo so così. Io lo so che stanno facendo le condotte nuove. E allora, perché poi andrò a fare vedere da poco. L'irrigazione, ragazzi, tutti, cacca, spendendo un bezzero, cacca, anni e anni che stavo perdendo l'acqua. E chi è che vuole entrare? Avanti. Ciao, Otto. Buonasera. Tu sei Franco? No, lo devi indovinare tu chi sono. Ah, già, ciao. Buonasera. Cata, parecchio che non ti sentivo più. Ehi, sono entrato 2 giorni fa, dai. Ieri sono entrato, non c'era nessuno. Ho spento e mi sono messo a cantare, dico la verità. Perché se non trovo gente io ho altri dubbi, quindi. Hai fatto bene. Hai fatto il giornalino. Ho pensato già per la sera. E sono felicito. E cosa devo fare? Ho sempre... tutte le ore siamo attaccati a questo aggeggio, solo a quest'ora, dalle 7 alle 7 e mezzo, la maggior parte basta, così è tutto. Infatti, così, alle 7 alle 7 e mezzo, vedi voi, oggi stiamo durando un pochettino di più. C'è il Natalino che si è appena mettoso, che non c'è mai nessuno, che non sa come fare a ammazzare un tempo. Ma quando fa vedere di dolore li bastano, e mai sempre la mettosi uno felicciuto, capito già? Lo so, perché quando non sai cosa fare fa piacere fare un quattro chiacchiere con gli amici, dai, già ha ragione anche lui, perché poi lui è sempre stato abituato a fare la radio come noi e quindi le manca. Certo, magari ammazzato che non può mancare il piede, perché se chiacchiera e c'è gente, si passa l'ora e fa benissimo. Anzi, non benissimo, cosa? Si vede la malinconia. Certo, lui per carità. Speriamo che guarisca a te. Spero subito che la salita è un battello. Il bottino di Mondial Po 12 milioni di euro. Cosa so? Alla Mondial Po, il bottino che hanno rubato di 12 milioni. Poco, pochi sotto. Paga nonna sombre. Sombre sì. Ogni tanto, certo. Certo, quello di Sassari, che è la seconda volta che li frega, arrasta tra tu, ragazzi, la barezza da lì con su dritto, attacchi tra i cavalli di là. Purtroppo, vedi che hanno incaricato due giacchi, hanno incaricato. E si è bello, e te ne abbaglia, in un attimo ti parli di là, ma se li trovano, si va a galera, paro. Sì, se la fanno franca, gli fanno bene. Ma prima o poi alcuni non beccano. La seconda volta in stanza ieri. Cazzo, mai questa volta mi vivo. Aveva tutti i danni pure. Cazzo, la rispa. Cazzo, mai non sentire la rispa. E lì c'è messa la guardia, già. Io penso che i numeri di serie se li abbiano memorizzati, perché le banche lo fanno, memorizzano tutte le serie dei soldi, per cui se loro vanno a spenderli possono riconoscerli da lì. Cosa ne dici tu? Si sono segnati alla ciappa, prima o poi quando vanno a spenderli. Prima o poi la ciappani, cassone, è tutto, guardate che hanno bisogno giunti, ci sono segnati. Non vera la guardia, ho dormito io. Ma già vera ne dentro i guardi, ne fatti subito la passione a bassi. Pare per la manica, gli dici. No già. C'era la vedetta, però l'hanno mitragliata, l'hai fatto cagare sotto. E non si può subire. La vedetta già c'è sempre. Ma c'è anche quello che, sì, come hai detto tu, c'è sempre quello che ha spifferato tutto, gli ha fatto la pianta, perché loro come sapevano se non entravano in quella zona lì a sapere dove era il cavo, dove era tutto l'altro, gli hanno fatto la piantina. Questa cazzo pare molto a studiare la faccenda, a caso me non c'era niente sulla ruspa al rimedio, è caduta. Non lo so, Poi a che sura? Uno scappatore a che sura? Che pagando mai a niente, non vedo che non vedo via far nulla. Non c'è papà nulla, mi si chiamava la polizia e carabinieri, li mitragliavano, li mitragliati da pure. Quindi di cosa ha cambiato, sono intervenute due pattuglie, capito? Lì ci voleva, sai che cosa? Militari della Brigata Sassari, con i mezzi blindati, e allora si gira via le bicicletta. Non lo so, no. Non puoi mettere i militari a morire così. Io dico che era stato un conflitto a fuoco che ci passavano i monopassoni. Meglio che sia arrivato un po' che si siano avviati. Te lo ricordi a chi vai cosa era successo? Che avevano ammazzato Cia con Carlo, eccetera, eccetera. E purtroppo rischiano, il rischio c'è, si sa, no? E chi fa quel mestiere il rischio ce li ha. Però quelli della Brigata Sassari sono addestrati per la guerra, quindi tu ti puoi immaginare. Sì, quello sì. Ma non possono intervenire loro. Ecco cos'è. Vabbè ragazzi, io vi devo lasciare. Ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao Gianni, stammi bene. A risentirci alle prossime. E grazie della chiacchierata. Ciao Gian Maria, lo stesso. Ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao a tutte e due. Ciao Tore, ciao, buona serata e buona carica quando la fai, grazie per il questione. Avanti Giovanni. Mi sembra che ci anch'io già, ma non quasi anch'io, devo fare le stesse cose del falcone e per cui devo approfittare là. Potevi entrare anche prima già, ma se non era possibile. Dai, anzi sentiamo un altro giorno, un approfondimento, grazie. La piccola chiacchieratina ogni tanto la faccio a te, chiudo anch'io già, ciao. Giovanni, sì, ciao, hai ragione, io l'avevo lasciato su 10, l'apparato stava scaldando e quindi non ho pensato a girare su 23, capito? Vabbè dai, comunque mi ha fatto piacere lo stesso fare quattro chiacchiere, anche se è poco tempo, ma mi ha fatto piacere. Buona serata, ciao e grazie per il questione. Ok, d'accordo, già, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao. Ciao Giovanni. A te, ciao. Ok. Ora siamo 23 app.